1, 2, 3, prova. C'è qualcuno? Attenzione canale 10, se c'è qualcuno. Su canale 10 che mi serve un controllo, per favore. Non ho niente di capito. Ok, grazie Antonella, ma sta andando male? Oppure va bene? Va benissimo. Ok, grazie, no, perché prima stava saturando, ho fatto una regolazione veloce adesso e volevo vedere se stava andando bene. Ok, grazie Antonella. Niente, non c'è problema, ciao, sai, ci scappate a vedere la partita. La partita? E quale partita? Scusami, io non ne guardo calcio, non ne so che partita c'erano tutti, cosa hai detto? Roberto, tutti gli altri stavano correndo a guardare la partita, e capito, per quello, non lo so, non me la sono guardata. Ma cosa che sento? Buchiamo tutti i palloni. Facciamo una votazione a Iottoni, che scriviamo buchiamo tutti i palloni, andiamo allo Juventus Stadium, a tutti gli stadi, andiamo a bucare tutti i palloni. Ciao Tony, buonasera. Sto mandando. Ciao Popo, ti farò poco appena, non ci parla. Ciao. Non l'ho già salutato, ciao Tony, scusa. Ciao Riccardo, ciao Antonetta. Io abbiamo conosciuto a Giulio chi? Dollaro? Yes. Io così sono contento, pensavo Padre Pio, una buona anima. No, Padre Pio si la piglia a luce, non ho mai potuto vedere, è meglio che non lo vengo, ce lo bisogna prendere a cura a Tenaccio. È morto? Sì. E di cosa è morto, Antonio? E secondo te cosa è morto? Coronavirus. Dentro il come si chiama? L'India Pedicella. Non ho capito, è morto il coronavirus. L'India Pedicella. Non c'è, come diavolo si chiama quella... Qualcosa degli anziani, ma non me la mento. E perché lui era ricoverato là? L'India ha avuto un ictus. Era messo male, dopo è morta la mamma, lui un po' più zincaro il dottore. Sembrava un coso, non lo so prima. Mattina e sera sempre attaccato al bar, non usciva a pezzi. Antonio, c'è i magneti. Per me ti siete miam, miam, miam, e ci vedi vincere le puntate. Aspetta, come siamo pensini, 2 secondi. Dai, avanti Riccardo. Sì, non lo sai che Antonello deve mangiare la prima cosa, poi può fare quello che vuole, però la prima cosa che deve fare ogni volta che ha la radio, mangiare o bere. Andare a spasso e fare la vita di Michelasso. E uscire bene magari Antonello. Anche. Quando le chiamiamo già escono. Uscire bene, al limite, domani. Mi faccio un giretto, mi faccio, intanto già ce ne sono un paio di ragazze qua buone, in modo che ti fanno sollevare il bicchiere. Antonetta, è serio? Tu serio, il bicchiere mi fanno sollevare, niente di male detto. Io manco le guardo, guarda, sono loro che guardano a me. Ah, poveretto. Sono modesto. Ma sì, a te ti sollevano la caffettiera. Riccardi, hai visto che Moreno è Sant'Antonio? Riccardi. Sono qui, scusate, comunque saluto a Marco, ciao Marco. Ci sono e non ci sono, Riccardo, sto vagando da una stanza all'altra, film, non riesco a seguirne, anzi non ne ho voglia di seguirne. No, Antonio, a proposito, hai visto i misteri delle lettere ieri? Ci ho dovuto trovare una posizione specifica e arrivava. Affacciato alla finestra, da una parte all'altra niente. Come mai è strano? Vabbè che abbiamo una passata di arrivi, oggi ho visto su Facebook. A quanto sembra che abbiamo visite questo periodo. Ma un bel mese, c'erano state almeno una cinquantina. Comunque, quello che ho già a voi. Quando leggi sulla televisione giornale, dico la TV, un asteroide che passa vicino alla Terra, ma lo sai cos'è in realtà? Sì, no, ma quello che ho pensato Facebook, ogni tanto ne appare qualcosa di strano, capito? Alla ISS in pratica mandano i filmati in diretta, capito? Quando vedono cose strane prendono e staccano e vanno in un'altra frequenza, vanno, capito? E siccome c'erano state minimo una sessantina di navi, hai capito? Hanno mandato il filmato, poi hanno preso e hanno staccato immediatamente. Come io dicevo, quando tu vai su Google, su internet, ti metti subito in prima pagina, a far vedere le pagine che qualche asteroide sfiora la Terra, di missioni, quella e quell'altra. In realtà sono gli ex asteroidi che stanno tirando le pietre. Sì, si stanno tirando in cantone, ma è vero, non penso adesso che tutti qui ne stavano scendendo, cazzo. Cioè, è vero già. Riccardi, meno male che arriviamo in campagna noi. Male, sennò io ero già schiattato, non riuscivo a rimanere in appartamento per 3 mesi. Mi trovate scheletro, proprio. Però la cosa pro è che forse l'unica in città, se hai una buona posizione, colleghi tutti, però con questa posizione la buona antenna già va bene. E come ho detto, meno male che siamo in campagna, sto lì, metti in campagna. E K, io faccio questa posizione che sono io, prendo tutto, mi sentono tutti. Non avrei mai pensato che mi sentivo da quelle parti, meglio così. Perché Torino si è fatto un buco, capito, sotto la casa. Si è fatto il buco dei tedeschi, si è fatto. E' tranquillo, capito. Si è installato la stazione radio sotto e l'antenna sopra. No, non è fatto buco. Comunque adesso sono anche più protetto ancora. Allora, io mi auguro che non entra qualche extracomunitario a casa mia, perché non esce vivo. C'è qualche cosa di bello. E non penso che esce vivo, se lo trovo io lo apro i due. Qui, anche se sono 2 o 3 non me ne apro più, non è tipo no. Perché io so dove abito io, come a casa mia, cosa prendere, cosa non prendere, dove. Loro no, quindi. E poi qua non potete dire, non sono mai entrato in nessuna parte, tanto che c'è il cancello con tutte le telecamere qui. E poi c'è sempre gente, c'è il calciatore vicino, poi ci sono io qua, poi c'è Vittorio, me andiamo. Il trigger è lo stesso, sempre in giro a cercare nelle campagne, capito, villette abbandonate, in modo da poter svuotare gli appartamenti, poi vado da Napoletano e si vendono la roba di lì. Tu basta le guardi lì, dici, cazzo, abbiamo mobilia, e non ci fa qua. Hai capito lui cosa ti risponde? Ah, questa io l'ho comprata. Hai capito? Io sono sicuro che un zingaro qua non c'è, perché non esce più. Forse solo Dio lo saprà dove lo metterò. Esatto. Io odio le persone che vanno in campagna altrui, vanno a rubare, che uno si fa il matto tutta la vita per farsi tante piccole cose belle e uno viene estraneo, ladro, zigaro, chi si sia, entra, viene a rubarti la roba, a me taglio il collo, ma perché tanto? Ma io anche se vedo, diciamo io passo in una certa zona, passeggiata, vado in campagna, vedo qualche uno o due ladri stanno entrando in una vita che è abbandonata, oppure chiuso non c'è nessuno, io intervengo lo stesso. Io sono fatto così, lei da fastidio. È una cosa logica quella. Io ti parlo di non adesso, di parecchi anni fa, avevo mio padre, mia madre, c'era Giovanna che era piccolina, c'era mio fratello, c'era io e vedevo, c'era un pastore tedesco come cane. Passano questi due in campagna, era agosto, ma un caldo che non te lo dico nulla. Passano con la busta e dove state andando voi? E mi siamo andati al macchio e siamo andati, mi ha detto. E io ho risposto, a parte il macchio è agosto così, detto, solo prima della settimana ha detto che non sta piovendo, quindi ho detto. Siete andati a rubare, però no, noi non siamo andati a rubare, e te lo sto dicendo io, detto. Comunque detto, una cosa certa gli ho detto, qui abito io, gli ho detto, in questa casa qua, il giorno che mi trovo gli ho detto, mi muovo il cane, faccio musicare a tutte e tre, però come partite. Poi è successo dopo 4-5 giorni, hanno preso e hanno. Babbo si è lasciato, non c'ero io, Babbo si è lasciato un piccone fuori e hanno aperto tutte e due le cose. Ci ha parlato della motozappa e quanto c'è. Sento che aprono qua, aprono là. A me non mi hanno mai aperto niente, la verità. Ma, vabbè, avanti Riccardi. No, se si azzardano qui li scacciamo via con il cane, che li vanno a leccare e poi non abbiamo cani a guardia purtroppo, sennò, però non penso che venga nessuno, non venga nessuno, siamo coperti alla foresta, siamo protetti, meno male. Però c'erano quelli che prima venivano tipo nelle case abbandonate, qua ci sono un bel di ruderi e li abbiamo trovati e si sono scacciati, però tanto tempo fa, ormai non c'è più nulla. Ma la casa tua dalla strada non si vede il casino? No, dalla strada, non si vede niente, tutto coperto. Tu sei più all'interno, giusto? All'interno, l'unica cosa che si vede da su si vedono le antenne e basta, non si vede altro. Non penso che vengano in quelle zone, dai, i zingari, per carità, o rumeni, che sia. Ma io sono proprio sulla strada, c'è il cancello, ma c'è la telecamera e c'è sempre gente, qua sono 13 ettari, è enorme la campagna, anche Villetto. Ma dirò una cosa, che io non ho visto nessuno. Una volta ho visto uno, un tipo con la macchina si è fermato, poi sono uscito subito, lo so chi sta cercando. Ha detto, no, ma che la tortizia, e abita proprio. Mi sono preso il cancelletto mio, e come ti permetti? Non ti reggo le mani, ce l'ho accetta, pronto proprio per stare scusa del tappeto io. No, sì, però stanno dando problemi perché qua sarebbe un percorso da fare che hanno fatto il comune di Sassari. Questo, hanno organizzato il percorso, andiamo tutti a Pligedo a passeggiare qui e lì. E il nostro vicino ha chiuso tutto e ha sbarrato con un cancello duro che manco il pandino te lo distrugge. E quindi tutti si stanno lamentando, era anche uscita sul giornale questa polemica. Guarda, comunque bisogna stare molto attenti, perché ci sono questi rumeni che sono peggio dei zingari. Quindi cioè in casa qualcuno ci deve essere sempre, capito? E anche un qualcosa, se una donna ha un'arma, così almeno un colpo in aria e uno a loro, invece io faccio prima a loro poi in aria. Problema, tutti spray al peperoncino in tasca. Allora, Antonetto invece ha avuto il cane, dai. Sì, vabbè, il cane che ho io, parte in quarta, capito? Appena sente i rumori, ne abbiamo di sotto, parte in quarta, si mette a bagliare e non lo vedi più, quindi almeno quello c'ho il coso. Quando lo vedono così, allora segnano la porta, dice no, qui c'è il cane, lascia stare, in pratica c'è gente, hai capito? Il problema è se non ci dovrebbe essere il cane, allora immediatamente la porta te la pigliano di mira e ti portano via quello che c'hai. Tu magari non te ne accorgi, dice cazzo, cosa è che stanno scendendo questi, mi sembra la bambina, hai capito? E capi, sei la curiosità, tu di che scuola sei? Io sono nella parte alta, sono praticamente all'istituto comprensivo Brigata Sassari. Sì, ma aspetta, all'altro anno vai sulle superiori? Sì, non ho capito. All'altro anno vai alle superiori, eccetera. No, negativo, e non sono neanche stato bocciato, devo andare in terza. Ah, ancora sei piccolo, allora. Vabbè, allora, almeno non potresti mai vedere allora, perché io l'altro anno me ne vado in pensione, io lavoro in tutte le scuole superiori. Ah, cappa, mi dispiace perché io volevo andare tra 2 anni volevo andare al Marconi, tu fai anche Marconi. Scientifico Marconi via Solari. Scientifico Marconi vicino all'agrario. Io lo so, dai, se conosco tutte le scuole. Noi facciamo tutta la provincia di Sassari, fate conto. Altieri, Alghero, Torre Dottori, Sertona, Panorma, tutto facciamo. Media. Andare, e l'altra la mezza di pensione. Antonè, ti lascio la stecca. Andare in pensione? Già non è in pensione io. Oh yeah. Ma tu sei in pensione forzata. Sì, ma forzata davvero. Sai, devo dire che quando esco di casa vado a fare la spesa e non so se mi trovo si muore in terra, il discorso è quello, capito? Sono quella paura io, capito? Quindi poi mi telefono ogni 5 minuti. Allora, ti fa venire l'incubi, ti fa venire, guarda. Ci vuole pazienza, Antonio. Sono cose che succedono. Io ho la buona di mia madre che era un poverino allettato a 5 anni già. E sono andata via, non ho fatto 4 anni e mezzo. Oh, purtroppo. È un casino, mamma non vedeva, non camminava. Quando arrivavo io, mi stavo di faccini, mi toccava la mano, me la battea piano piano. E lo so cosa vuol dire, dai. Sì, io c'ho Giampiero allettato, figurati. Ieri mi ha detto tutti colori, a me a cosa Giovanna? Figurati, ormai di testa non c'è più, capito? Quindi me lo so portare a lui. Poi di qua, eccetera, eccetera. Adesso guarda, però... devo alzarmi per farmi la spesa, perché a piedi non voglio più piegare la mia valla. Mi piglio un motorino, di quelli 50, se no 50, di quelli che non ci vuole nel casco né niente. Guarda, mi faccio la spesa, perché a farla a piedi e portarmela entrare, non voglio più piegare, adesso vado delle razze, ormai. Quelle moto 50, peccato, la casa si chiama. Quelle elettriche sono. Elettriche? Elettriche sì, ci sono gli scooter elettrici, 850 io. Ma dici da strada non camminare? Sì, a vedere se camminano quelli, 250 watt di potenza c'hanno il motore, puoi salire anche in due, non solo l'altro, non ci vuole il casco, la sicurezza non è niente, hai capito? A me mi è venuto un rappresentato a casa, 1150 euro, ho detto... cos'è 50, no? Io vorrei un Kawasaki 1000, e come ce l'avevo prima 150, se prendo la moto adesso mi prendo un 1000. Lo sai che 1000 fa la bubua, quindi preferibile una cosa da dire. Io per caso mi serve per andare mi faccio la spesa, ma la sacco a casa, basta, non mi serve per altro, non mica devo andare a... come una volta che prendevo me la andavo in giro, capito? Al bagno, al prodotto, si beveva una birra e cose del genere. Oppure andavo a farmi le seminate, non me la fotti più lunga a me. Solo per farmi la spesa, mi ci metto l'acqua, che pesa, e le buste, boh. Dopodiché arrivo in garage, svuoto tutto, ci lascio la moto dentro e se la tengo in culo. Ma già ci vuole forse, dai. Avanti, ricordi tu, se proprio non ce l'hai, meravale. Comunque, volevo chiedere, Marco, se Marco c'è ancora, che gli devo chiedere un'altra cosa, perché tutti mi stavano, stavo parlando con un amico prima, il CB sempre, e tutti i tonini stavano dicendo adesso vado a vedere la partita, tutti a vedere la partita, sembra che stanno regalando telefoni. Ehi, che poi quando riuscite a parlare, vi abbiamo fatto 3-0, abbiamo sotto scudini. Ma cosa vi abbiamo? Perché tu hai giocato, ti danno qualche cosa a te. Fammi vedere le coppe scudini che c'hai. Cioè, mi danno fastidio quando parlano. Sono arroganti questi juventini. Ci sono persone che stifano la squadra. Poi, se la squadra perde, sale la Juve, no, passa automaticamente alla Juve, no, io sono juventino. Se la Juve fece dei vasi, lui diventa interista, dopo interista diventa romano. Cioè, gente, insomma, qua. Maxi da Pielucci, il pallone che ha fatto per me, io potevo guardare a loro, non mi interessa niente. io parlo, lo odio, capito Riccardo? Io guardo qualche volta i mondiali perché mi interessa che vinca la squadra italiana e basta. Quando perdo l'Italia, giro altri canali, non mi interessa più perché l'Italia non gioca più. Fino adesso abbiamo fatto solo schifo e basta. Il resto del calcio a me non mi è mai interessato, la verità. Ma avete detto prima, Babbo diceva, mamma mi sembra diceva, che sono degli scemi seguendo un pallone. Bravo, quindi sono ragione. Poi Marco, giustamente, lui ha detto che sto qua, sto là, sta sempre stuzzicando, mangiando una parte all'altra. E quindi... c'è propagazione, ma senti, intanto in sottofondo quando c'è bianco già la sento un po' di propagazione, se mi manda laterale. Ma te immagini che devo stare fino al 18 luglio qua, no, le balle, ho fatto già passi grandi, ho fatto. Io la prossima settimana mi passo in casa e poi rientro a lavorare. Tutte le visite le ho fatte, devo rifare anche il pagamento, ma me la butti non sa. Sono tutti scomparsi e li stavano chiamando Marco, vabbè Marco ha il suo orario diverso, quindi si sta preparando per andare al lavoro, lì sono le 5 di mattina. Poi Antonello sarà in ascolto, vero Antonello che ci sei, almeno te? Sono qua. Sto scrivendo la guasta, aspetta. Ma tutti a me capitano. Ecco. Me lo sei fatto anche in quel posto, sei fatto. Aspetta che vado un attimino a controllare questa storia del come si chiama. Allora vediamo un po' pezzino. E lo sport c'è, cioè. Aspetta, insomma 5-2, 15-30 è giusto anche rischiare. Ma c'è la partita di tennis, che a 8 punti si ha separato del marcador. Pero todavía queda. Se acaba de salir muy todavía, marcador. Pues pero... otra cosa. Ho messo un altro microfono, Riccardo, è meglio che senti. Questa è un po' meglio secondo me. Gatta. Cioè cos'hai messo? Le qua 10 al massimo. Media. Comunque questa storia dell'ecco, io dico la mia, non c'è problema, a me non mi dà fastidio. Ma neanche a me, però quando è troppo che non si capisce. Cos'hai detto, alla fine dico beppo, basta. Non risponde, il discorso era solo quello, lui può mettere l'eco, può mettere il problema, i bimbi può mettere, no. Io se voglio lo metto, ma non lo metto, lo tolgo. Allora che negli ultimi 10 anni dopo Ibrahim ci ha segnato più gol con i Milan 34-39 su Leo Bonucci. Vai uno, sono stati i primi 4 minuti della ripresa. 0-0 Pianici. Lo sto guardando sul telefonino, figurati tu. Ronaldo Danilo Antone. Ho messo il televisore a zero su un altro canale, lo so che era una partita ma me ne ha fottuta e tu me la fai sentire anche in frequenza, pacca le dai. Aspetti, abbasso Matti Ghin, ecco. Avanti Riccardo. Non se ne può più, ma come si fa? Cioè, per dire, non per criticare, non per dire il calcio, io sto dicendo la mia opinione. Secondo me, ci sono quelli che vanno a lavorare tutto il giorno e prendono, fai anche l'esempio, 1000 euro al mese, e questi per una partita, perché ci sono 4 semi, ciao, bravi, sì, 4-0, bravi, prendono milioni di euro. Allora, è tutto sbagliato. E che ha lavorato la vita, poveracci, anziani che non arrivano neanche a 500-600 euro al mese. È una vergogna. E non parliamo dei politici, quello è peggio, quelli sono sanguisuga. Loro spendono 20-30 mila euro al mese per dire cazzate, per far piangere a noi e metterci in condizioni di proprio misere. Ci sprecano come limoni. Io lascio un'altra ala che vado in pensione, me ne vado via dall'Italia e i soldi me ne godo fuori, capito? Con la mia pensione mangio in un ristorante, dormo in albergo, me ne avanza anche i soldi. Lì se compri la macchina, tutti questi casini di soldi che paghi qua, là non le paghi. Qua sono troppo maniaci, assolutamente no. Non c'è problema, fra un po' scappiamo tutti in direzione Gran Canaria. No, anche c'è questa macchina, dai, se per andare molto lontano. Oia, Repubblica Ceca, c'è in Spagna, Romania pure, Romeo mi piace, no. I rumeni sono luffi, ma che dai. Lo so che sono un po' luffi, si vede, no? Posti tranquilli. Se mai vado a Gran Canaria mi piace una bella antenna su un bel palo e faccio di ex con tutta la Spagna, non me ne può fregare niente, sto bene, aspetta, tengo l'altro apparecchio, sto bene lì in spiaggia, oh. E vabbè, però anche altri posti nordici sono belli. Insomma, ti sei proprio affezionato al baracchino, ricordi? Sì, baracchino, però poi sì, soprattutto il baracchino, ormai sto passando la maggior parte della giornata, adesso che ho finito la scuola, non ho messo compiti, la passo al baracchino, oppure guardando apparati, i manuali dei miei apparati, perché alcuni non li conosco e li voglio conoscere meglio, capito? E passo le giornate così. Capito. Andrò bene. Antonio, finito di mangiare. Quella esce dalle camere a fare i bisogni. Portati la bustina, mi raccomando. Oh, Riccardi. Cosa c'è? Intanto che ho fatto questo quel passaggio di prima, ci ho fatto due volte cammino, una passeggiata. Come minimo, e anche un bisognino mi ci ho fatto. Già lo so. Cosa c'è? Dunque, io da prima volta che ti ho sentito in frequenza mi sono fatto un'immagine di te. Tanto è vero che ho poi indovinato. Bene, bene, come mi immagini? Ti ho anche visto, c'è il cappello. Tu dove mi hai visto? Iniziamo, dove mi hai visto tu? Su Facebook. Ah, su Facebook! Hai visto quindi la stazione? Perché l'antenna quindi l'hai vista, quindi sei utente Facebook. No, veramente non ho visto né l'antenna né la stazione. Ho visto la tua famiglia che ci sei vicino, con tutti e quattro i capelli in testa, tipo la cowboy, tuo padre, tua madre e tua sorella e tu. Ah, cappa, già ho capito, capito. Eia, tu stai sempre smanettando. E capì, durante il giorno, vabbè qua c'è sempre da fare campagna, sempre diciamo campagna, mica vado a zappare che non me la frutto in nulla, non sono un tipo che costruisco, faccio, disfaccio, ho due bucce di cani bellini veramente, e il baracchino lo accendo la mattina è raro, il pomeriggio mi appoggio un po' con la notte, capito? E quindi spazzolo per Facebook una parte o l'altra e insomma, e poi ecco come ti ho visto, ti immaginavo già così, un ragazzino simpatico in gamba, anche per l'educazione che hai, mi va bene, trovo bene. Fai, già lo so con la foto, però se cerchi il mio profilo ci sono anche altre cose comunque, capito. Marco è scappato che il fuso orario è diverso. Poi Pomponio, Antonello è andato a portare il cane con il sacchetto, la sicurezza prima di tutto, e qui non c'è più nessuno, sono più che porto gli altri. Beh, veramente il cane con sacchetto non l'ho portato, il cane c'è un vicino. E ci ha portato la mia ragazza. Ha a letto, perché 3 giorni che non dorme, quindi figurati, adesso ho dato la pastiglia per dormire, adesso non posso dormire. Il cane già, c'è bisogno di portare una cosa a che dopo, il cane va da solo, già conosce Torino il cane mio, se non mi ricordo male. Cappa che lo conosco, quando sono a casa tua se ti ricordi bene. E appunto per quello che ti volevo a casa pisciare la ruota. Non penso proprio che le pisciarò. Io conosco la bandante dei miei, di mio fratello che c'ha il cane, se lo mette letto a cosa se lo mette. E ti mette piccolo nero. E ma con la rustica se lo mette dentro la borsa. Riccardi, più che altro ero curioso per tuo padre, però io veramente non me lo ricordo, forse perché non c'è capito adesso. È proprio possibile, gli sono caduti tutti. Meglio cadere capiti che altra cosa. ormai è già da un po' che non ha capelli, gli stanno ricercando se li dà gli adulti. Sì, ma non me lo ricordo tuo padre. Qualche uno mi hanno detto, sì, ma noi non lo conosco, io non lo riconosco. Se mi ricorda qualche particolare, può darsi pure che faccio memoria, apro i cassetti e la memoria, può darsi pure. No. È possibile. Non lo so, perché tu ti ricordavi che era diverso? Ma io sinceramente non lo ricordo per niente. Tu hai detto che mi conosce, mi ha venduto l'apparato tantissimo tempo fa. Però se lui non mi dice particolari, io non posso ricordarmi. Vedere una persona così, chi è? È una persona che comune, come tanti altri, ma non la riconosco. Cappa, forse l'avrei sicuramente già visto lui quando faceva quel lavoro e era sempre in giro e ne ha visto molte di persone. E come ho detto, deve essere che si è trasformato. Tutti ci trasformiamo, prima o poi, capito. Gli anni passano per tutti, io ho capito, adesso già ne ho ancora. Non molti, ma già ne ho, grazie a Dio. Si sono imbiancati, non di tutto ancora, però l'età che ho non la dimostro, grazie a Dio, me ne porto abbastanza bene. Vero, Antonio? Buia. È bello che li ho persi io, ormai i capelli, fa cuffia. Ormai la vecchiaia a me mi sta già suonando, mi sta. Purtroppo. Ui ui, purtroppo capita così. Io faccio una vita molto, molto, ma movimentata. Non sto mai fermo. Io mi fermo solo quando vado a letto e mi appoggio. Il pomeriggio e oggi devo uscire, non avevo proprio voglia, niente, mi sono messo a giocare con i cani e ho detto domani esco, ma non sono voglia. A Manuele devo rifilare qualche tavola e adesso domani devo toccare a circolare. Meglio così di andare. Va bene. Quindi tu dici che tutti ci trasformiamo. Bene, questo è positivo, è una cosa negativa. E quindi avanti, Antonello. Allora, Riccardino, sempre qua sono. Basta guardarmi su Facebook, già mi trovi a me. Ci sono le antenne, ci sono gli apparati che uso io, ma sai che fai un giretto. Tanto già sai il nome e cognome, mi sembra. Antone, stai andando a scarica. Scarica sto parlando, 1, 3, 4, 5, 6. Sì, tutto. Vabbè, il microfono che sto usando. Tanto c'è la Giovanna. Capito? Due Giovanna dei microfoni, ma e due apparati, figurati. Io Giovanna me la ricordo piccolina, se la vedo non la riconosco più. È sempre uguale, cosa? Una identica, che siamo devo la vista a pizzicotto. Ma abita sotto di te. E allora, abita sotto di me, abita. al primo piano, c'è anche mio fratello che è ancora vivo, Gian Piero. Ehi Ada, riprendo io un attimo che chiamo il cane, che questo di solito quando lo lasciamo andare se ne va fuori alla campagna e comunque Antonello io Ah, sei tutto di me, non c'è problema, sono contento. Io non ho segreti, io non sono più tifoso. Io ho dato anche il mio numero di telefono e frequenza. Penso un po'. E lo do tranquillamente perché problemi non ne ho. Se mi vuoi trovare non mi sembra vero. Sì, e sono io, ho trovato il mio telefono mio. A tutti ho dato. Tutti ragazzi CB, ragazze CB che prima c'erano, sono sparite, ma comunque sia. Ho sempre dato a tutti. Anche all'esco posta addirittura. Tu pensa che una volta ho il mio numero di telefono, frequenza, c'erano tanti orecchi di porco e qualche giorno mi ha mandato delle foto di Baracchino e c'è un altro ciao Tony, quello e quell'altro, sì, ma se non ti presenti. Capito? No, non ho problemi io. Proprio io non ho problemi, non è, lo sai. Se non io. Avanti Fabio Master. Appa, 351 a tutti e saluto a tutta la ruota. Ciao Fabio, ben sentito. E Riccardino, in pausa. Riccardino. È andato a seguire il cane e farlo rientrare. Dai. Ah, va bene. Buonasera Tonino, buonasera Antonello. Ben sentiti. Toni, ti ho diminuito un po' nel tuo parecchio. Non ho capito. Ci ho sdiminato nel tuo parecchio, ho fatto un po' di controlli. E beh, conclusione più o meno. La conclusione è un po' così, è un po' da vedere, perché c'è da rifare lo stadio dell'alimentazione, perché è colpa sua, no? Poi c'è da cambiare il finale audio, c'è da cambiare la manopola dei canali e da fare l'allineamento per averlo ben funzionante. Però è una questione base che non conviene usare col suo alimentatore perché fa questi danni, capito? Cioè, conviene usare un alimentatore buono. Aspetta che Tonino, ti ho sentito, c'è ricardinato al tempo. Ripetimi Tonino appena. Io non mi ricordo più, ma c'è l'alimentatore interno, quello dicevo mai errato. Esatto, è tutto questo danno che c'ha è per colpa del suo alimentatore interno, capito? Siccome è tutto dimensionato e c'è la stabilizzazione sulla scheda della PC board, praticamente abbiamo fatto una stabilizzazione stupida, un trasformatore sottodimensionato, e quando scoppia il regolatore, praticamente in questo momento il baracchino sta funzionando a 20 volt, non so se mi rendo conto. Comunque ho fatto un video, l'ho fatto ricevere con un trucchetto, ma non si può tenere così. Dunque, si può cambiare l'alimentatore interno, sì. Come sono, scusami, guarda, veramente non riesco a sentirti. Minchia, sto operando la metà di antenna adesso. E anche poco fa la propagazione ti ha superato. Ho detto, si può cambiare l'alimentatore interno? No, cambiare no, però volendo, se riusciamo a cambiare il finale audio, altre due cosettine che sono intorno, la manopola dei canali, si può usare con un alimentatore esterno, cioè tu mi dirai, ma se è una questione base non ha più senso, però Tony, cioè, o così oppure fa parecchio, è nato con un sacco di problemi, ma tanti problemi, tanti, capito? Ma fammi capire, ne vale la pena a farlo un pochettino andare? Allora, secondo me non, per l'apparecchio che è non ne vale la pena, perché c'è solo una cosa, è bello, cioè è bello che dica, è proprio bello, è una figata, sembra anche essere, cazzo, cioè, fantastico, a vedersi è bello, per l'estetica è a posto, è fantastico. Fatto tutto il resto però è ancora brodo, non lo so se poi riparato ti dura un giorno, 5 anni, non lo so, perché poi sono andato a frugare, ho trovato, cioè, gente disperata, gente che l'ha messo a 50 euro, capito? Ecco, allora conviene lasciarlo così e buonanotte, lì. Cosa dici? Guarda, secondo me possiamo non impegnarci tanto, però almeno cambiare il finale audio, capito che la cifra è veramente bassissima, sperando di trovarlo, può costare 5 euro, 7 euro, mi dico 10 euro, prendiamo senza fare, fare molte cose, cambiamo il finale audio e abbiamo l'audio sull'altoparlante. Diventi lo spinato dietro, un alimentatore a 12, l'ho risolto così. Quando cambi i canali è una tragedia, ma una volta che li hai cambiati, cambiati il canale giusto, fa culo, cioè già rimane. Lo puoi provarlo così per non spendere, averlo comunque acceso, magari trovi per ascoltare, più che altro. In trasmissione ci sono altri problemi, però Tony, cioè non è un apparecchio di quelli che è durato, perché chi l'ha avuto poi alla fine la qualche parte ce l'ha dovuto buttare. Vabbè, prova a fare quello lì, dai, al limite. Certo, cavolo, è propagazione che non me ne frega niente. Ogni tanto ti succa, raga, porca miseria. Antonè, quel baracchino l'hai avuto anche tu, eh? Oh, non so che baracchino è, sono venuti voi. Se no, al limite, basta metterci un abitatore di squici, che si postano all'interno. Magari ci dovrebbero essere quelli stabilizzati da 3-4 ampere, una cosa del genere. Penso che vada bene lo stesso, non lo so, adesso sto facendo magari fesserie. Non so che apparecchio sia, è la verità, no? Che apparato è? Quando va a fondo? Che altro? Adesso va il telefono, grazie, no, il telefono. Comunque, quello quando ce l'aveva Gio Maria già te lo dice, che marca è, perché non me la metto più. Mi manda una foto adesso Fabio, così lo vedo un po', va, vediamo se riesco a avere qualche illuminazione. Fabio, stavo salutando, ciao Master, ciao Alfa 21 Master, lo ti chiamo. Fabio, volevo dire ad Antonello, volevo chiedere se com'è se è un buon istituto, perché anche io volevo iscrivermi all'istituto, non lo so. Per fare elettronica? Tu sei iscritto all'istituto, non lo so, e ti volevo chiedere com'era. Per fare elettronica bisogna che lui sia Fabio, si fa il corso lì all'industriale e sei tranquillo, quando finisci l'industriale non fai altro che con il diploma che c'hai, scendi a Cagliari, non c'è bisogno di fare nessun esame, ti danno i patti di rilevatore. Tu vai e ti riparo le cose da solo, capito? E sei più tranquillo. E più ripari anche agli altri. Te lo stavo chiedendo perché stavo smanettando sul tuo profilo, visto che tu hai smanettato sul mio, e che ha scritto ha frequentato gli studi, non lo so. Ah. No, il mio profilo l'ha scritto mia nipote, quindi, però se tutti guardano gli apparati che ho, messi lì in un mobile, già sta tranquillo, già, uno di noi ne ha avuto baracchini. La 74 adesso, se si fa i conti, avrò speso un minimo di, vabbè, prima delle lire, adesso siamo in euro, meno di 10.000 euro ce l'ho spesi, questo è poco ma sicuro. I apparati, io ho cominciato con l'FM500S, no, sto prendendo il risorso, c'è nessun SAT. Faccio 123A, presa a pezza, Grand Plain, quello per la crisi, ma devo dire che allora i primi apparati che sono usciti 40 canali, sono usciti mi sembra un anno, due anni dopo, ce l'aveva Falcone, Vittorio, Walter, non mi ricordo gli altri che ce l'aveva, io ero l'unico che c'era proprio 23 canali, ero il più poveraccio che c'era. Dopodiché, dopo che ho fatto gli studi lì all'Inapli, e adesso non esiste più, allora ho cominciato a comprarmi un po' di apparati come si deve, capito? Poi ho cominciato a riparare, eccetera, eccetera, e mi sono divertito, la verità. Ormai a fare riparare i baracchini, chi ti riporta? Ma con cara ti riporta più libre. Oramai è cambiato tutto. Uno di parallo foto stampate normali, con i componenti normali, l'altro invece con questi accenti di microprocessori che non può manco toccarli, ci vuole anche il gradimento eccetera eccetera, quindi non conviene più. Infatti non lo faccio più, mi avete beccato a fare antenne, mi ricordo gli aspetti, una foto così, vedo che apparecchio di Tobin. Antone. E ha 2 secondi che guardo la foto, va. Il calzolaio c'ha le scarpe bucate, il pittore c'ha la casa tutta da dipingere. Io sono con il tricicla, grazie a Dio, le luci funzionano tutte bene. Tu c'hai tanti baracchini, quello qua sta facendo che lo schifo, sempre con le scariche, tutto poco fa, non trovo il tuo microfono, Antone. Tutto scarica, gara. Come fai a modulare così? Va bene, domani mattina vado, mi prendo in Saverta, che c'è la casa di Giovanna. E così me lo esco bene, va? Ok? E ti accontento, Caruccio. Io sono sicuro, se ti metti un microfono normale, esci che è una meraviglia. Lo so, c'è un microfono normale, c'è quello del FM500S. Domani me la aggancio, va? Aspetta 2 secondi che controllo la foto. Ehi, io ho saputo comunque Gio Maria trovato te. A ripararlo. Va bene. Ricati, ma riprendi. Facciamo andare avanti a Fabio, visto che lui è un. Che è un po' che non lo sento, anche se l'ho sentito prima via telefono. Avanti, mastro! K21, e allora? Ma guarda un po', ma guarda un po'. Che serata, ricati. E beh, avete continuato a girare i canali. Ah, sì, è vero. L'appalato tedesco, cazzo, cioè, ne ha comprato 3 in 1. Che apparato tedesco? Questo, ne ha comprato 3 in 1 di apparati tedeschi. Come 3 in 1, cioè? 3 a pezzo di 1, pesa a pezzo. Ehi, sì, ne ha un altro manuale, ne ha altri 2, uno non funziona, infatti, e l'altro si funziona. Sì, esatto, sì, già lo so, già me lo ricordo questo. E tu l'hai messo a mano, perché l'hai messo a mano? Senta, ma poi c'è la gente che si è dovuto affrontare, bello. C'è propagazione, dicevo. Ricca, ma poi hai fatto il giro dei canali in cellula. Io voglio farvi che tu ti metti una bella antenna, cavolo. Questa propagazione del menga ti copre ogni tanto. No, ma non mi ricordo se l'ultima volta che era venuto Fabio, sei caduto quando ha detto che si era messo l'antenna? Eh beh, ho visto questo segnale così forte, cavolo. Poi invece abbiamo saputo che era da te. Sarebbe stato bello che aveva già messo l'antenna, invece ancora lì sul tetto, immaginandosela che bella che lì su devi agire. Dimmi una cosa, ricordi, ma tu ci sei su Facebook? Sì, c'è Bic, sì, ma non pubblico niente, smanetto su profili CB. Capito. Fabio, lì l'ho cambiato, la manopola dei canali. Ci ho messo quella dello stereo, che fa up down, gira a destra e cambia canali, gira a sinistra è lo stesso. Ha fatto un paio di manopole, anzi un po' di potenziometri, la verità, adesso mi sono ricordato. Cappa, vabbè, la manopola di canale la cambiare di nuovo, perché dove giri, avanti e indietro, va avanti, il canale per forza. Perciò è un po' complicata la cosa, magari ci metto un po' di strade e si riesce ad andare anche solo avanti, ma il canale per volta già si riesce a usarlo, perché fai tutto il giro, torni indietro, capito? E va. Però il vero problema è l'alimentatore che sta sparando 20 volte, capito? E poi c'è lo stato di stabilizzazione che anche se gli dai 12 volt c'è anche altro problema perché c'è una resistenza che prende fuoco, ma temperature a livello che mi ha bucato un dito, mi sa. E poi c'è il finale audio rotto, vabbè c'è qualche problemino sulla tastiera, ma quello magari 5 minuti ci si mette a mano, magari può migliorare, insomma, è un apparato che è un po' lavoro. Sì, sì, adesso me lo ricordo. Infatti gli avevo guidato, ho detto guarda che è un casino questo apparecchio qua. infatti hanno cambiato la cosa, quella che c'era originale, la manopola di canale non funzionava per niente, allora ho messo quella dello stereo, di quelli di Jotun, che quello stereo combi per esattezza, che fa destra e sinistra, e ho installato quello e funzionava benissimo. Poi c'erano dei potenziometri che a volte funzionavano, a volte no, se non mi ricordo qual era e cosa del genere. Comunque si può modificare il 100 canali con l'apparecchio lì, è bello, però meno. L'unica cosa è la questione dell'audio, solo quello. No, ma non 200, no. Si può modificare a più di 400 canali, cioè usci c'è a 7 bande questo apparecchio. Il problema è il solito, perché la banda centrale funziona, anche quella di sotto ancora, anche quella di sopra ancora, ma in tutte le altre poi riceve a schifo e esce con un watt, o con mezzo watt, o niente, ai limiti di banda. Perché di quelli digitali che sì, fanno un taglio di frequenza, però poi l'elettronica che deve supportare il tutto, cioè i filtri, i finali, eccetera, non sono fatti per farli accendere così tanto, capito? Perciò anche se lo modifichi, non è vero che c'è 400 canali, no? Se ne funzionano solo 180, così. E poi comunque è pieno di difettini, cioè è nato così, capito? È nato storto. La cosa che c'è che è bellissimo, è troppo bello, gli strumenti, i frequentimetri, cioè è troppo figo la parecchia, proprio figo figo anche. Hai visto i punticelli che ci sono, quelli a tre? Tu sposti il punticello e ti cambia la cosa. Sì, sì, li ho visti, anche se non è che li stavo guardando il PLL o il processore, quelli qui apparentemente stavano andando bene, è che sicuramente è completamente fuori di tarature, perché mi ho fatto il video a Torino, l'ho fatto ricevere con un giochetto, praticamente gli ho tirato una cuffia su un piedino per riuscire a prendere l'ingresso, sono riuscito a battere lo squelch, perché non è a principale lo squelch. L'ho alimentato da fuori e insomma si è messo a ricevere la parete, capito? Cioè un pochino sta andando. Però cioè, in queste condizioni anche se diventa tutto l'alimentatore, poi siccome è stato dimensionato, forse il regolatore, come forse il regolatore al posto di aprirsi, questi regolatori vanno in corto, perciò i 20 volt che gli entrano dall'ingresso li vanno diretti nell'uscita. Stavo guardando un po' di forum eccetera, c'è uno che gli ha scoppiato la lampadina in faccia, ma ti rendi conto? Sì, vabbè, sono a parte tedeschi, ne ha preso un tessuccio, non c'è, ne ha pagato uno, quindi figurati, al volo, quindi figurati tu, me lo ricordo questo. Comunque Fabio, si può cambiare l'alimentatore, penso. Cavolo, ma stavolta ho capito che ha parlato, ma non ho sentito Torino, cosa ha detto Torino? Si può cambiare l'alimentatore, ha detto. Conviene cambiarlo, conviene se un alimentatore esterno gli metti lo spinotto dietro, conviene perché lo spazio per l'alimentatore in realtà non c'è, e siccome non c'è lo spazio per l'alimentatore, quello che ci hanno messo dentro è piccolo, capito? E allora dai, fai una modifica per un alimentatore esterno, io ce ne ho due alimentatori a voglia, chi è che ha detto è per me? Comunque se metti quegli switching di 17 euro, da 10 ampere, quelli che è l'ampere esterno e va bene lo stesso, tanto la luce forse la alimentazione. E qui l'alimentatore interno e fai il collegamento diretto. E io ce l'ho una 15, 8, 25 ampere a voglia. Vabbè, ho lasci fuori però perché dentro non c'è lo spazio, capito? Quello sarebbe stato mettere un altro piccolo alimentatore che ci stava lì di là, quello di trasformatore, capito? Ci metti l'alimentatore completo dentro di 12 volt, così era più bellino, però siccome non ci sta, devo lasci fuori, gli colleghi due fili, c'era lo spinotto. No, dovrei prenderlo. Al limite l'ho preso il tuo fusaro, poi ti lo stesso dice quanto hai preso. Oh, al limite non l'ho sentito, cos'è stato Neo? Al limite. Io dico lo spinotto, poi dici quanto è e te lo paga. Ah vabbè, mi sa che gli faccio uno spinotto tipo quello che è fatto tu con quelli di computer. Devo mettere così che due fili che escono, poi lui ci collega l'alimentatore. Così facciamo prima, non spendere neanche niente. Perché se iniziamo, 5 euro di quello, 10 pensiero di quell'altro. Qui ci mettiamo altri 5 euro, poi mettiamo 3 euro di spinotto, arriviamo a 50 euro e io non mi sto prendendo niente. Io 50 euro su questo apparecchio non li avrei spesi. Vabbè, sarebbe un po' la pena, poco a poco, dai. Sì, infatti, guarda, lui è stato a pularlo così, a cambiare solo quel finale, a riuscire a cambiare quella resistenza, gli aveva messo la 4 watt, è una resistenza da un chilo, capito? Gli aveva messo la 4 watt così non si scioglie, gli aveva messo magari dalla parte giusta, perché adesso era la parte sbagliata. L'ha alimentato all'esterno, così la forza un po' di meno, gli mettiamo questo regolatore nuovo, così evita di rompere le palle, cioè ce la cambiamo con 15 euro, Tony, va anche bene, spendere 15 euro va bene, però di più non lo so, io non l'avrei fatto, tanto si rompe di nuovo, poi alla fine si mette tutto a posto, non ne vale la pena. Poi è qualcosa che è modo, però c'è problema Fabio. Sì, 15 euro di pezzi e 500 euro di euro, ci mancherebbe. Da male. Così poco fa. Ti ho detto che non ne vale la pena, tu non ci vuoi credere. Ma detto già va bene, si accende, poi si riceve un pochettino. Ma prova a fare quel lavoro che stavi dicendo, dai. Vediamo, ci serve un pochettino. Aspetta, guarda, stacco le cuffie dal tuo, la metto nel mio, che magari riesco poi a metterti meglio, aspetta. Ok, ricordi, ripeto. Lo riprendo. Tony, come ogni sera, tra una mezz'oretta inizia a prendere la carreola. Sì, addirittura. Ehi, Tony, da quando gli hai messo in testa questa cosa della carreola, gli è piaciuta, eh? Ho visto, da quando devo aggiungere la carriola, guarda. Mi pare disperato, ho dovuto andare a comprare la carriola, ragazzi. Quindi Riccardi, ti viene bene con la carriola, tu viaggio. Sì, c'è un'altra cosa esce, altro devi sforzare le mani per fare addominali, muscoli. Bah, ormai hai la carriola, ti alleni sui bicipiti e tricipiti con la carriola spingendola, scende anche la ruota quanto è pesante. Scusa, ma dove c'è tutta la roba, le baracchine eccetera, che stai sempre trasportando? Perché dove adesso? Non la puoi lasciarti? No, perché la porto tutta dentro casa la sera, però poi un po' ne uso, uso per 40 canali, poi su quei 40 canali ascolto perché c'ho uno che è meglio in ricezione che in trasmissione e quindi è per quello che ne prendo un sacco e poi un giro di sera me li ho quando carrezzo dentro. Ma ne usi uno soltanto, gira gira, tanto sempre sul bici siamo, Vabbè, la passione. Non so. Dunque, Fabio, fai così, dai. Proviamo questo metodo. Speriamo che va. Sì, dai, se cambiate il segnale audio, arriva qualcosa altoparlante, gli si accendi. E vabbè, il regolatore lo dobbiamo cambiare per forza. Comunque, per darti l'idea, il regolatore li hanno cambiato un po' di volte, perché la vite è tutta smanettata del regolatore, capito? Cioè, il cacciavite su quella vite lì c'è passato 100 volte, perciò sicuramente l'ha spaccato 20 volte quel regolatore. È bellina, ti viene da ripararla, però poi ti rompe di nuovo. Guarda, per darti un'idea, è pure che ho sentito, questa preparazione e rumori strani, extraterrestri, ti ha coperto, porca miseria. Ehi, gli extraterrestri, Riccardi, tu lo senti, Riccardi? Certo che lo sento a Fabio, lo sento forte e chiasso. Io no, è una posizione negativa per me, cos'è che ha detto? Aspetta, ripeti Fabio che ero anche distratto, immaginati te. Distratto alla radio, Riccardino, punizione, Allora, ascolta bene, ho detto che la vite che tiene il regolatore sicuramente l'hanno toccata tante volte perché è tutta mezzo spanata, dunque quel regolatore l'hanno cambiato un sacco di volte. Quel regolatore è stato cambiato un sacco di volte perché la vite è spanata. Chissà chi è, quel monello ti ha fatto casino. Però tante mani ci sono sopra sicuramente. Gente che non sa fare quello che deve fare e ha fatto pasticci. Tony, sicuramente lo cambiavano e si bruciava, capito? Vuol dire che lo metteva sbagliato, scusa. diametro della frazione è superiore a quello della, che può darci il trasformatore e l'alimentatore che abbiamo fatto. E perciò la frazione, dopo che è andata importante, magari per qualche minuto, tipo un passaggio lungo tipo questo, no? Ne fai 2, 3, 4, puff, e smetteva di ricevere. Tac, le lampadine belle alte, perché si rompeva il regolatore. Più o meno la stessa cosa quando io sono andato alle magistrali, che il cancello elettrico non apriva, mettevo il fusibile e me lo scoppiava, rimetto il fusibile e scoppiava, tutti i controlli che ho fatto.